Amore mio, lo so che sono solo pochi giorni, però mi manchi da morire. Non te lo dirò mai, ma fino a che non torni io rischio di impazzire. Cassa, yeah. E basso. E se non te lo scrivo adesso in un messaggio, magari con più stile, è solo per non dartelo questo vantaggio, e per non essere puerile. Non so se ti sei accorta che iniziava maggio e intanto terminava aprile, terminava aprile, terminava aprile. Momenti delicati e di passaggio come questo che fra l'altro è pure un anno bisestile. È un anno bisestile. Ma tu non preoccuparti dai, non preoccuparti proprio mai. No, tu non preoccuparti dai, continua a fare ciò che fai. No, tu non preoccuparti dai, non preoccuparti proprio mai. Continua a fare ciò che fai, continua pure. È tipico di te che ti fidi di me, che non mi fido quando dici che ti fidi di me. E ci rimugino, è proprio tipico. È tipico di me che non mi fido di te, che invece dici che ti fidi di me e che vorresti ci fidassimo. Ma qui che casca l'asino. Però non preoccuparti dai, che mi farò coraggio, domani provo a uscire. Non voglio certamente rovinarti questo viaggio, che però dovrà finire prima o poi. Dovrà finire, non finisce mai. Dovrà finire, non finisce mai. Non torni mai, tu non torni mai. Non torni mai, cosa cazzo fai? Manco per sogno rimanevo solo senza di te. Infatti rosico come un facocero. Mi irrito perché chiedi poco di me, che invece fingo i mini mezzo con te. Che mi confondi con un monaco. Amica basta l'abito. Sono solo pochi giorni.